Tutti i cari ascoltatori, sono l'evento locale per il 18 di Greenwich, qui in Radio Cairo, tra la discussione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo all'ascolto della trasmissione in lingua italiana, trasmessa in modulazione di frequenza sulle 9490 kHz, pari a un decorso di 31 metri, programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. Nel corso della trasmissione di oggi potrete ascoltare l'Egitto seguito alle 25 dal corrispondente di ascoltatori di Han Fier. Alle 20.15 notiziario. Alle 20.25 grado musica orientale. Alle 20.30 bacchiere economico di Yasser Ahmed. Alle 20.35 cronaca sportiva di Alana Pellucci. Alle 20.40 prima pagina del sistema del Medici. Alle 20.45 l'edificio si racconta di Eter Ahmed. Alle 20.55 riepilogo delle principali notizie. Seguita la presentazione del programma dell'indomani e la chiusura con la canzone araba. Iniziamo i programmi di oggi con Bell'Egitto. Bell'Egitto. A cura di Alia, Ola e Heba. Nel 1929 fu fondata a Roma l'Accademia d'Egitto, istituto arabo unico in tutto il mondo, grazie agli sforzi del pittore egiziano Rajab Ayad, durante la sua permanenza a Roma con il sostegno del collega Yusuf Kemal. L'Accademia d'Egitto a Roma contempla tra i suoi obiettivi principali quello della divulgazione della cultura egiziana ed araba in Italia, ma non solo, poiché l'intenzione prevalente della sua attività nel corso di questi anni è stata sempre quella di fondere la creatività egiziana e italiana e di vederle realizzate in un continuo laboratorio di ricerca comune. Tale fine viene perseguito attraverso un intenso programma culturale che si estende nel corso dell'intero anno, proponendo al pubblico italiano una vasta gamma di manifestazioni culturali, quali mostre d'arte egiziana contemporanea, pittura, scultura, grafica, ceramica, architettura, mostre di artigianato egiziano, tappeti, vestiti tradizionali e oggetti di arredo, concerti di musica classica e musica araba, opere del Cairo, gruppi folkloristici egiziani, cinema, rassegne cinematografiche di film e registi egiziani, teatro, rappresentazioni di pièce egiziane contemporanee, nonché delle conferenze di egittologia e archeologia e convegni sulla letteratura egiziana e araba e la sua traduzione in italiano. Dall'Egitto, Viola Sanuzzi. Da Radio Cairo vi presentiamo Corrispondente degli ascoltatori. La cura di Alessia Amorelli. Buonasera carissimi amici, benvenuti a una nuova edizione del vostro programma settimanale Corrispondente degli ascoltatori, tramite il quale leggiamo ed analizziamo le lettere giunteci da parte vostra. Vi mandiamo l'invito a tutti i nostri cari ascoltatori di mandarci le vostre partecipazioni. Il nostro indirizzo è Radio Diffusione della Repubblica Araba d'Egitto, Radio Cairo, programma italiano non primario, stanza 654, casella postale 566 e numero 1591 del Cairo, Egitto. Ripeto, Radio Diffusione della Repubblica Araba d'Egitto, Radio Cairo, programma italiano d'oltremare, stanza 654, casella postale 566-11511, Cairo, Egitto. L'indirizzo di posta elettronica è programma.italiano@yahoo.it. Ripeto, programma.italiano@yahoo.it. Iniziamo con un mail ricevuto dal nostro caro amico Francesco Mussilli, in cui dice: mi fa veramente molto piacere sapere che state cercando di convincere il presidente della radio a farci sentire la trasmissione anche su internet. Spero che si possa realizzare nel più breve tempo possibile, perché sentirvi sulle onde corte è veramente possibile. Vi do un piccolo esempio di come mi sento. Una volta trasmettevate anche per satellite hardware, perfettamente ricevibile da tanti italiani. Come mai non siete più presenti lì? Comunque il mio piccolo ha fatto voluto sostenere l'iniziativa, rigirando la vostra richiesta di ricevere più rapporti d'ascolto e più risposte di trasmissione su internet ai vari gruppi a cui appartengo. Inoltre l'autorevole sito di un posto al mondo della radio in italiano ha anche pubblicato una articolo che riguarda la causa e potete trovare il link portale.iterradio.org. Tra i grandi broadcasting chi manca dal panorama internet è proprio Radio Cairo. Probabilmente però ho notato che il programma in lingua spagnola è invece molto attivo su internet. Oltre ad avere una pagina Facebook, ha anche un sito web in costruzione, un account su Twitter e infine ogni giorno mettono su YouTube tutta la registrazione del programma del giorno prima. Insomma, è veramente imponente come servizio offerto ai propri ascoltatori. E poi ho provato ad ascoltare la loro frequenza con il mio sito Sanja 909, fondo corta alle 0.45 UTC su 9720. E come per magia funziona correttamente la loro modulazione. Il servizio inglese invece è ben presente con tutta la programmazione giornaliera sul famoso sito WRN. Quindi credo che anche voi non dovreste avere molte difficoltà a farvi autorizzare dal presidente a poter inserire la trasmissione su internet. E poi il problema è quello di non saperlo fare e non sapere quale piattaforma utilizzare, non c'è problema. Sarebbe lieto di aiutarvi, ovviamente gratuitamente, a fare ciò. Spero di aver presto una felice notizia. Che l'altro era legato anche alcuni rapporti di gestione fatti in questi giorni. Caro Mazzurro, infatti vorrei ringraziarti per ciò che stai facendo per aiutarti e ti comunico che il programma spagnolo e altro vogliono sentire del satellite. Qui è facile prendere una copia della trasmissione e caricarla su internet. Intendo dire che è un gesto isolato e non ufficiale, ma forza personale da parte del personale del programma. Mentre noi siamo nascosti dal permesso del presidente, perché non abbiamo una via alternativa. La trasmissione del programma italiano e quello tedesco sono gli unici che non vengono trasmessi via hardware del Mindset e la regione è sconosciuta. È da ricordare anche che il programma italiano ha un account su Facebook e una volta lo usavamo per trasmettere alcune rubriche, ma purtroppo abbiamo trovato per la forza da parte dei nostri ascoltatori non è stata dal posto delle nostre aspettative, perciò il nostro sforzo in questo campo è interrotto. Ti ringrazio ancora una volta di cuore per il rapporto d'ascolto dettagliato inviatoci sul programma con 533222. Caro Mossilli, aspetto da te il rapporto per l'uso a noi. Un abbraccio. Il portale di Irtar Radio da parte sua ha pubblicato un articolo sotto il titolo Radio Cairo su internet. Lo chiedono numerosi ascoltatori. Integrare l'attuale modalità di diffusione in un mondo corso su un canale internet per ampliare le possibilità di ascolto. Un'analisi del nostro lettore Francesco Mossilli in contatto con la redazione italiana. Francesco ha intrattenuto una corrispondenza circa la possibilità di trasmettere la trasmissione italiana anche su internet con il direttore Monarchia, augurandosi che tanti condividano l'idea, giunta anche sul tavolo della presidenza della radio. Mossilli scrive di essere consapevole che molti di noi non amano ascoltare le radio su internet perché viene tolto tutto il fascino del radioascolto. Ma per risolvere il problema della modulazione che affligge spesso l'ascolto dell'emittente egiziana, affiancare un segnale di internet aiuterebbe Radio Cairo. Per un lungo periodo Radio Cairo aveva anche un canale satellitare molto buono su Eutelsat, ora purtroppo interrotto. Cari amici, vorrei ringraziare di cuore anche la redazione di Vita Radio che ci dà grande sostegno. Ringrazio veramente chi ci aiuta in questi momenti difficili, pieni di buon ascolto, e vi confermo che la redazione di Radio Cairo sta facendo del suo meglio per raggiungere l'obiettivo di farvi salvare la nostra emittente via internet, in quanto permette di salvare sforzi, tempo e denaro. Chiediamo a tutti di attivarsi per mettere in atto una protesta che possa far arrivare la nostra voce il più in alto possibile. Radio Cairo avete appena ascoltato Corrispondenza degli ascoltatori, un programma a cuore di Hello Kids presentato da Alessio Bonotti. Antenna Radio Cairo, ora in onda il notiziario. Con i titoli delle principali notizie. Condannati 43 impiegati stranieri ed egiziani dell'organizzazione non governative. Il segretario di Stato americano lancia un duro monito a Israele perché riprende i negoziati. Un morto in colpi di mortaio vicino all'ambasciata russa a Damasco. Sale a 3 il numero delle vittime degli scontri in Turchia. Passiamo ora alle notizie in dettaglio. Un tribunale del Cairo ha condannato 43 impiegati di diverse organizzazioni non governative, egiziani e stranieri, fine comprese tra 9 e 5 anni di carcere per aver lavorato illegalmente nel paese. Le sentenze seguono i processi iniziati dopo le perquisizioni degli uffici di queste organizzazioni, molte delle quali operavano sotto il regime dell'ex presidente Hosni Mubarak e che le nuove autorità hanno accusato di ricevere fondi illegittimi. Il consigliere del presidente Morsi, Ahmed Eddin Abdel Ghaffour, è ritornato al Cairo oggi al termine di una visita di 3 giorni in Qatar. Nel corso della sua visita, Abdel Ghaffour ha avuto dei colloqui con i suoi interlocutori qatariati sulle questioni di interesse comune. Rami Hamdallah, premier designato palestinese incaricato di formare il nuovo governo, presenterà probabilmente la lista dei ministri nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas. Richiesta di formare un nuovo governo nei prossimi giorni concluderà le consultazioni e proclamerà un nuovo esecutivo, ha detto Abu Mazen ai giornalisti a Ramallah in Cisgiordania, 2 giorni dopo aver incaricato il rispettato accademico a formare l'esecutivo. Il segretario di Stato americano John Kerry ha lanciato un duro monito a Israele affinché riprenda i negoziati con i palestinesi, sottolineando come questa potrebbe essere l'ultima possibilità di arrivare ad un accordo di pace. Il tempo passa, le possibilità diminuiscono, se torniamo questa volta potrebbe non esserci una nuova possibilità, ha detto Kerry davanti a centinaia di persone riunite a Washington dalla comunità ebraica americana. Il segretario di Stato dovrebbe tornare la prossima settimana in Medio Oriente per il suo quinto viaggio in Israele dall'inizio di febbraio. Un civile è stato ucciso da un colpo di mortaio esploso vicino all'ambasciata russa d'Alasco nel quartier centrale di Mazra. L'ha riportato l'osservatorio siriano dei diritti umani. 5 giri di mortaio sono stati sparati sui quartieri limitrofi di Mazra e Adawi, a Damasco, vicino all'ambasciata della Russia, uccidendo un civile e ferendo un membro delle forze di sicurezza, ha precisato l'organizzazione non governativa. Sono oltre 1000 i feriti nella città di Qusair da 3 settimane a teatro di una violenta offensiva del regime di Damasco e ormai all'estremo. A denunciarla alla Jazeera è un medico, Qasem Azim, che coordina le cure in diversi ospedali di fortuna, riferendo di come i feriti vengono ormai curati anche in abitazioni private dopo la distruzione del principale ospedale della città. I martiri sono oltre 200. La Russia non ha ancora consegnato per ora i sistemi di difesa aerea avanzati S-300 alla Siria. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin a Ekaterinburg per il vertice russo Unione Europea, aggiungendo che non è dell'intenzione di Mosca sconvolgere l'equilibrio di potere nella regione. Il contratto è stato firmato diversi anni fa, ma non è ancora stato implementato, ha affermato Putin. A 2 anni dalla cacciata di Muammar Gheddafi, la NATO ha annunciato che invierà un team di esperti militari in Libia, in vista di una possibile missione di addestramento a favore dei militari di Tripoli. Il team sarà inviato il prima possibile, ha dichiarato il segretario generale dell'organizzazione, Anders Fogh Rasmussen. L'esame di legge si tutelerà negli ambiti in cui hanno bisogno di addestramento e negli ambiti in cui possiamo rappresentare un valore aggiunto, ha dichiarato la Schlüssel a margine del riunione dei ministri della difesa degli alleati a Bruxelles. La Schlüssel ha poi aggiunto: vorrei sottolineare che non stiamo parlando di trasferimento di truppe, ma un'azione che mira a proseguire il nostro impegno e si è dimostrato nel proteggere e nel cooperare con il popolo libico. Sono le 20:20 e siete nel scopo del notiziario. Italia 3, il numero di vittime degli scontri in Turchia ad una settimana dall'inizio dei disordini per difendere il Gezi Park, minacciato dalla costruzione di un centro commerciale. Una vittima, Abdallah Comer, è un ragazzo di 22 anni, ricevuto in ospedale dopo essere stato colpito con un colpo d'arma da fuoco durante scontri nel sud della Turchia insieme con la Siria. Intanto la Confederazione dei Sindacati dei Lavoratori Pubblici ha proclamato in Turchia 2 giorni di sciopero per protestare contro la repressione delle manifestazioni antigovernative. Invece il ministro turco ha cercato di allentare la tensione con decine di migliaia di manifestanti antigovernativi, scusandosi per la violenta risposta della polizia ad una protesta pacifica che ha innescato 5 giorni di tumulto in tutto il paese. L'eccessiva violenza che è stata usata inizialmente contro chi si stava comportando con rispetto per la mente sbagliando l'acqua, il suo con questi cittadini, ha detto Bulent Aren, che è una conferenza stampa ad Ankara. Aren ha aggiunto di voler incontrare alcuni organizzatori della protesta di Istanbul, che si è trasformata in un foggio di rabbia senza precedenti nei confronti del partito al governo. Da parte sua, l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha chiesto alle autorità turche indagini rapide a approfondire indipendenti e imparziali sulle accuse di uso eccessivo della forza contro i manifestanti rivolte alla polizia turca. Ma detto a Ginevra la portavoce dell'agenzia ONU, Cecil Puyi, chiedendo inoltre che i colpevoli siano portati di fronte ai giudici. Si augura che le autorità turche riescano a instaurare un dialogo con l'opposizione e la società civile in grado di risolvere le estenuanti questioni che hanno portato le recenti proteste di piazza. È un auspicio espresso dal presidente russo Vladimir Putin, che ha parlato durante la conferenza stampa al termine del vertice Unione Europea-Russia a Ekaterinburg. Rispondendo ad una domanda che chiedeva se la primavera araba non fosse arrivata anche in Turchia, Putin ha espresso la speranza che le manifestazioni si svolgano in una forma legittima e in un contesto diverso dove le persone si possono ascoltare a vicenda. Un ordigno nascosto sul lato della strada ha ucciso un padre di famiglia e 3 dei suoi figli nella parte occidentale dell'Afghanistan, tra ultime di una serie di vittime civili del conflitto di 12 anni in atto nel paese. La missione delle Nazioni Unite a Kabul ha dichiarato che nelle ultime 2 settimane 125 civili afghani sono stati uccisi e 287 feriti nel conflitto, un aumento del 24% rispetto allo stesso periodo del 2012. I turchi sono responsabili dell'84% di tutte le vittime civili, ha detto l'ONU. Gli Stati Uniti hanno identificato e messo sulla lista nera una rete di grandi imprese legate alle massime autorità iraniane. Sono 37 le aziende private colpite da Washington, colpevoli di aver creato un network di affari capace di evitare le sanzioni internazionali e generare miliardi di dollari di profitti. La decisione degli Stati Uniti sottolinea le crescenti pressioni sull'Iran prima delle elezioni per scegliere il successore del presidente Mahmoud Ahmadinejad per convincere la Repubblica Islamica a rinunciare alle sue sanzioni nucleari. La Cina ha detto ad un inviato del leader nordcoreano Kim Jong-un che Pyongyang dovrebbe smettere di condurre test missilistici nucleari, ma i coreani non hanno mostrato grande interesse ad accogliere la richiesta, ha messo una fonte vicina ai colloqui tenuti alla fine di maggio. Kim ha inviato Kim Jong-un, vicepresidente del più alto organismo militare del paese, a cercare di spiegare ai cinesi le recenti azioni della Corea del Nord, ma ha ottenuto una reazione tiepida da parte di Pechino, ha detto la fonte che ha rapporti stretti con Pechino e Pyongyang. Dopo l'incontro, la Corea del Nord ha promesso che intraprenderà passi positivi per la pace, mentre la Cina ha ripetuto il suo mantra di volere calma e moderazione sulla penisola coreana. Da Radio Cairo avete appena ascoltato il notiziario. Ben trovato una nuova puntata del vostro programma nel corso del quale faremo molto sulle attività economiche di Siena, nonché sulle relazioni di cooperazione economica tra l'Egitto e i paesi del mondo. Nella puntata di stasera si è stilato l'accordo per il collegamento elettrico tra l'Egitto e l'Arabia Saudita. Il suo ministro Italia immagina conferenza di successo per lo sviluppo attività nel Giappone Era per tenuto di scambi commerciali, la nuova condizionata del movimento turistico. Il Cairo per la nuova riunione di Irvi si fa. Il ministro della Ricerca dell'Energia, l'ingegnere Flippino, ha segnalato che il sottosegretario Arianna Penso, nuova saudita, l'accordo relativo alla realizzazione del gigante progetto del collegamento elettrico tra la Cecca e la Arabia Saudita. Nel nome di tale progetto, che entrerà in servizio con dei costi montati a 1,6 miliardi di dollari, sarà solo circa 1.300 km, si opereranno per lo scambio di 3.000 MW, vista la differenza delle ore di punta, contribuendo a risolvere il problema di interruzione di corrente elettrica in due paesi. Ma forse tu hai in mano sottolineato l'importanza del collegamento elettrico tra la Cecca e la Arabia Saudita, siamo dotati di una rete elettrica nel mondo arabo, producendo circa il 92% del totale dell'energia elettrica di tutti i paesi arabi. La conferenza TICAT per lo sviluppo africano aperta questa settimana a Tokyo dal premier giapponese, in presenza di capi di Stato e di governo di 54 paesi africani, il primo ministro egiziano, il dottor Hisham Kambi, ha esaminato con il suo omologo nippone le energie atte al rafforzamento delle relazioni di cooperazione economica e commerciale tra i due paesi. Il presidente del Consiglio ha passato in rassegna nella sua parola alla suddetta conferenza gli sforzi svolti dall'Egitto al fine di promuovere l'economia e di attrarre gli investimenti tramite l'incoraggiamento delle relazioni economiche e commerciali interafricane dopo la rivoluzione del 25 gennaio 2011. Candela ha discusso inoltre con i responsabili giapponesi il contributo del loro paese ai grandi progetti nazionali d'Egitto, come stato lo sviluppo del corridoio di navigazione del canale di Suez, oltre alle proposte di cooperazione nei campi delle potenze elettriche, comunicazione, gestione, attivazione e manutenzione del turismo, piccole e medie imprese, nonché l'adozione di interscambio commerciale tra i due paesi. Per la prima volta oggi, martedì, riunione rappresentanti dei Verdi africani, visto che l'Egitto è rappresentante del Nord Africa nell'Unione. Le discussioni tra le riunioni vertono sullo sfruttamento di esperienze dei capi di partiti africani e la soluzione dei problemi del continente nero, come stato gli alimentari, le risorse idriche, l'energia e la tutela dell'ambiente in generale. Così è la conclusione del vostro programma, vi auguriamo buon proseguimento di serata e alla prossima puntata. Il risultato di Sfera Economica è un programma a cura di Ecrasma presentato da Alessio Bonacci. Ascoltatori, ben ritrovati ad una nuova puntata del vostro programma, nel corso del quale vi presentiamo le notizie sportive. Nella puntata di stasera, l'edizione Romeo Alfieri rafforza la proposizione a senso della classifica mondiale maschile della Professional Sports Association. Ma effettuata in una missione ottenuta ufficiale da parte del Servizio Internazionale di Salto, al fine di migliorare la posizione dell'Egitto nella classifica mondiale. Sarà per l'edizione di pallavolo nel ritiro in Italia in vista del gioco per l'edizione non ha ancora rafforzato la data per della classifica mondiale maschile emessa ultimamente dalla Professional Sports Association, sese dopo essersi aggiudicato il titolo del torneo britannico internazionale di sport. Il 25enne Mansour è diventato il primo egiziano a conquistare il soprannominato importante torneo internazionale lanciato per la prima volta 50 anni fa. Egli si è piazzato al primo posto nella classifica mondiale maschile a quota 17.610 punti, dopo il distanza di altri 6.000 punti da Francesco Graham Gaffier, oltre ai suoi compaesani Karim Darwish, Mohamed Sherbani e Andy Sabena. Restare le anni mi sono piazzato successivamente ai posti quinto, sesto, ottavo e decimo. Quanto alla classifica mondiale femminile, l'egiziana Ranin Menomanone si è piazzata al quarto posto. Il tecnico della nazionale di Siena di calcio ha dichiarato di apprezzarsi la necessità di inserire la partita amichevole tra l'Egitto e il Botswana a un programma che c'era martedì a Cairo nell'elenco di valutazione competizione internazionale. Bradley ha messo nel momento di impegnarsi delle condizioni della Federazione Internazionale Gioco Calcio FIFA che sempre ottiene le sfide internazionali in particolare. Il numero dei campi non deve superare il massimo di 6 e la partita va diretta da un altro arbitro internazionale. L'obiettivo dello staff tecnico dell'Egitto è quello di sfruttare tale partita, considerata l'ultima prova tra la nazionale egiziana contro quella dello Zimbabwe e Mozambico, nell'elevare la posizione dell'Egitto nella classifica della FIFA. Si tratta di uno stato positivo per i faraoni nella seconda fase dell'eliminatorio, valido per la qualificazione al mondiale, perché aumenterà l'opportunità dell'Egitto di affrontare una nazionale di nuovo livello, fino alla qualificazione al grande evento mondiale in programma del 2014 in Brasile. L'esposizione della nazionale egiziana di pallavolo si è recata poche settimane in Italia dove entra a fare peso fino al 6 di questo mese. Per portare tale ritiro, la nazionale egiziana giocherà un fatto numero di incontri amichevoli nel quadro delle preparazioni alle competizioni di calcio del Mediterraneo, un programma questo mese ha passato le preparazioni. Siamo arrivati a fare la fine del vostro programma, vi auguriamo buon proseguimento e vi curate la prossima puntata. Cara di cara, avete appena ascoltato Rana Cascettina, il programma a cura di Alla Finis, presentato da Alessio Bonnetti. Buonasera carissimi amici e ben ritrovati. Con gli altri rimani generali da un'ora di violazione del corso del mondo che si ritrova dalla Croazia, necessario per consentire di impiantare il macchinario che serviranno per costruire la diga di grande di massa. Poi di ridurre nettamente la portata del grande fiume, con conseguenza una occasione per l'agricoltura egiziana stranamente. È l'argomento occupato le prime pagine della stampa egiziana che sembra amare da questo stato musicale. Cominciamo con le manchette. Al mattino, guerra per l'acqua tra Etiopia e Egitto. È inquietante prospettiva dopo l'annuncio del governo di Addis Abeba di voler procedere con i lavori per la realizzazione di una gigantesca riva che tratterrebbe in forza gran parte delle acque del Nilo Azzurro. A Cairo e a Khartoum si sente che milioni di persone rischiano la fame sul progetto etiopico a gran parte. Questo perché non solo la portata d'acqua del fiume è ridotta drasticamente per anni, ma anche una gran parte del limo, il fango del Nilo che fertilizza le terre e possono scolarsi nei fiumi africani, vorrebbe trattenere dalla vita un territorio sì. Food and Agricultural Organization. L'Egitto ha serie difficoltà nel garantire contenitori per rinnovabili e la maggior parte delle risorse, circa l'86%, viene principalmente utilizzata per usi agricoli. Allora il quotidiano Al-Akhbar e l'Egitto. Appena il gruppo di ruote si erano arrivati per la necessità di proseguire nell'attività di coordinamento per la questione di Nilo Azzurro, intendevano entrambe le parti a monitorare l'altra. L'intesa prevedeva l'istituzione di una commissione mista tra i due e la Pastura per discutere del progetto di Nilo Azzurro, che risale al 2011, ma la nostra legislatura ha azzerato tutto gettando gli altri due paesi in grande preoccupazione. Come potrà mettere una consistente evoluzione a fronte di una netta diminuzione della risorsa idrica dei giovani dei paesi del Corno d'Africa sul bacino del Nilo? Tuttavia, come sempre accade in questi casi, le voci sono particolarmente disturbanti. Secondo la dal Ministero degli Esteri è stata chiamata porta per l'attivazione del nostro progetto che è stato fatto con il campo prezioso dell'addetto ai lavori. Una versione del congresso pubblico delineato in Cairo è soggetta ad avvisare il congresso. Inoltre le dichiarazioni dell'ambasciatore Gisano Khartoum contribuiscono a complicare la situazione. L'Egitto potrebbe chiedere l'intervento di una nuova arma per chiarire la situazione con l'Etiopia. La radio Cairo avete appena ascoltato prima parte la segna stampa a cura del professor Benedì presentata da Esteban. Benvenuti all'ascolto del Radio Cairo del vostro programma. Questa sera passeremo da fare la volta della Santa Palestra. Seguiteci dopo questo attacco musicale. Il giorno, il corpo di un corrispondente al suo lavoro, non si è saputo celebrare la strada della Santa Famiglia d'Egitto. Quel giorno, le cinque carte da portetto risuonano sulle parole della doxologia. Volete è Egitto, e gente dell'Egitto, e tutti i bambini che volano all'interno delle sue frontiere. Volete la vostra cuore e il serbatore dell'umanità. Quello che era prima dell'inizio dei secoli, avanti da voi. Egitto è una Secondo fonti della Chiesa Copta, tra cui la più importante era la testimonianza di Papa Teofilo, registrata nel Santuario in Copta, la famiglia santa prosegue da Betlemme a Gaza, quindi a Erzaramis, conosciuto come Sofia, a circa 37 km a ovest dell'Ari. Poi hanno continuato la cammina al nord di Sinai, fino ad arrivare a Farma, vecchia Eruzio, a metà strana tra Nari e l'attuale Porto Saide. Era il loro ultimo arresto nel Sinai, lasciando per le spalle i territori della Siria. Per Bassa e Bassa, nella quale in seguito, non lontano da Zagazin, la città principale del governatorato di Sarkea, circa 100 km a nord-est del Cairo. Qui Gesù ha fatto sorgere una fonte d'acqua, e la sua presenza ha causato la veramente indole i cittadini di conseguenza hanno cambiato il loro comportamento, diventando aggressivi. La famiglia santa ha dovuto lasciare la città e dirigersi ancora verso il sud. La santa famiglia nella città di Novgorod. Durante il loro viaggio predestinato hanno raggiunto Novgorod, che si è chiamato da quel giorno Al-Mahamma, soltanto a 10 km dal Cairo. Al-Mahamma significa il posto da città. Questa è la Maria, ha fatto il bagno al piccolo Gesù e non ha dato il suo significante fatto il ritorno verso la Palestina. La santa famiglia si fermò ancora una volta a Novgorod, e questa volta perché il cancellare della terra nel punto d'acqua che esiste fino a nessun giorno. La famiglia santa alla città di Belgrado. Ma però la santa famiglia si dirige a nord-est del Brun, vecchio Filippo, anche nel governatorato di Sarkea, distante 55 km dal Cairo. Si sono riposati all'ombra di un albero che esiste ancora e fu denominato l'albero della Vergine Maria. La santa famiglia è Menyit Tamanid. Lasciato Berbese, la famiglia santa raggiunge il piccolo borgo di Menyit Tamanid, conosciuto anche come Menyit Bena, attraversando il muro alla città di Tamanid del Loti, nel Delta. Qui la popolazione locale mi ha ricevuto con la bontà e l'ospitalità che è stata ricambiata con la benedizione. La santa famiglia è la città di Sasa. Il nome copto della città, Terra Uso, significa il piede di Gesù. Per norma lasciata dal problema del bambino in una roccia. La roccia è stata conservata in segreto e nascosta per paura dei ladri. Il viaggio continuando a Tamanid a Sasa e secondo la tradizione che sono in molte città e villaggi nei governatorati di Succo, di Kassa e di Sardegna e anche della terra selvaggia di Delta. La santa famiglia guadagna prova. Il primo passaggio a Sasa è ricordato dalla documentazione della visione di Papa Teofilo sia dalle pratiche dei copti rimaste dell'era cristiana. I viaggiatori arrivano qui dopo aver attraversato il Nilo nella parte ad ovest del Delta, che era Wadi Natron, a quei tempi chiamato El Ostrit, nelle deserti occidentali di Siano. All'inizio del cristianesimo, le parti di esercito di Wadi Natron diventarono centri monastici, commemorando spiritualmente il passaggio della Santa Famiglia della Valle. Ma per ora è Come loro che hanno lasciato dietro il deserto, si sono diretti verso sud, attraversando il Nilo, Matarena e Ancham, verso Idropoli, il luogo dello scientifico università della Science, il luogo dei vecchi tempi dei faraoni On. Entrambi due siti sono oggi parte dell'attuale Cairo, a 72 km dal centro urbano. All'arrivo della Santa Famiglia, Zaytun era un villaggio di una lunga comunità di ebrei. Ora avevano costruito qui anche un tempio, la sinagoga di Lunis. A Matarea c'è ancora l'albero visitato dai turisti, chiamato l'albero di Maria. Così si pensa che la famiglia si sia fermata all'ombra di quest'albero. Ancora una volta Gesù Bambino ha fatto sorgere una fonte d'acqua, dalla quale ha bevuto e poi benedetto, e con la quale sua madre ha lavato i suoi vestiti. Si dice che dopo aver versato l'acqua del lavaggio per terra, in quel punto è stata una pianta piena di un balsamo profumatissimo. Oltre alle proprietà curative, questa essenza è usata nella preparazione di profumi che formano la santa Crisma. Passando al cambio, un giunta con l'unica si riposò per un tempo al giorno, per poi procedere lungo una strada dove oggi sorgono i parcelli affollati della capitale. Ma la comunità copta ha conservato i ricordi del viaggio. Benissimo lo tempo, le spese e i luoghi santi cristiani al centro del Cairo. La chiesa della Vergine Maria a Zeila Eli, le chiese di San Giorgio il Martire, la chiesa di San Mercurio a Botafin, con le Bassani, il monastero della Vergine Maria e il monastero di San Giorgio. Anche al centro del Cairo, a Kobe, ci sono la cattedrale di San Marco del Betene, una frazione chiamata dalla Vergine Maria, conosciuta sotto il nome El-Aldoi. Lara di Cairo avete appena ascoltato. L'Egitto si racconta. Un programma a cura di Eser Ahmad, presentato da Alessio Bonino. Lara di Cairo, vi presentiamo l'epilogo delle principali notizie. Condannati 43 impiegati stranieri di cristiani dell'organizzazione non governativa. Il segretario di Stato americano lancia un duro monito a Israele per assentire prendere i negoziati. Un morto a colpi di mortaio vicino all'ambasciata russa a Damasco. Sala Cremona e Rossini scontri in Turchia. Passiamo ora alla presentazione dei programmi di domani. Alle 23 di giugno, alle 25, pone le sessioni speciali in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Alle 20:15 notiziario, alle 20:25 dossiere economico di Yasser Ahmed, alle 20:30 il numero forte di vita del dottor Mahmoud Mahistava, alle 20:35 un brano di musica orientale, alle 20:40 prima pagina del programma di lunedì, alle 20:45 enciclopedia audio di America News, alle 20:50 versetto di rivelazione del dottor Hassan al-Khalid, alle 20:55 ritiro delle principali notizie, seguito dalla presentazione del programma di domani la chiusura con una canzone araba. Cari ascoltatori, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. L'appuntamento di Radio Cairo si rinnova domani alle 20. Dallo studio 33 di Radio Cairo vi augurano molti giorni di serata dalla tecnica Mustafa Stella e la microfono Alessia Bollante. وتبدأ وعودك وتنحط لها.